Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, è arrivato il nostro momento, il nostro perché non sono sola, in regia ho Peter Bescapè, in redazione Viola da Piaggi, il nostro sommario. Cartilagine, cosa sai di lei? Un pizzico di sale in meno allunga la vita. Ferite, impara a disinfettarle bene. Elastica, resistente, protettiva, sembrerebbe la réclame di una maglia della salute e invece sono le caratteristiche di un tessuto al 100% naturale di cui parliamo oggi, la cartilagine. È proprio concepita, pensata per resistere a molte sollecitazioni, tuttavia, lo sappiamo, no? Durante l'arco della vita tale resistenza può essere minata da una serie di fattori che la espongono a lesioni più o meno importanti. Di queste parleremo oggi. Esistono, per fortuna, diverse opzioni terapeutiche, dalla fisioterapia alla terapia con mezzi fisici, sino al trapianto per rimetterle in forma, nell'attesa delle cellule staminali, di cui vi daremo un aggiornamento sullo stato dell'arte e della ricerca in chiusura di trasmissione. Qui in studio davanti a me ho il dottor Enzo Marinoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Specialista ortopedico dell'azienda ospedaliera Niguarda Cagranda di Milano e con un interesse specifico nella chirurgia articolare e nel trattamento delle lesioni cartilaginose. Quindi, dottor Marinoni, lei sa tutto sulla cartilagine. Tutto non lo sapremo mai, stiamo ancora studiando. Comunque una buona parte, diciamo così, delle attività finora eseguite sulla cartilagine in effetti sono a nostra conoscenza. Un tessuto importantissimo. È un tessuto particolarissimo, soprattutto importante perché riveste le articolazioni e distribuisce i carichi che vengono applicati su queste articolazioni, quindi ci permette il movimento, ma è un tessuto particolare perché è privo di innervazione, di vascolarizzazione e non ha delle capacità di autoripararsi. Praticamente la cartilagine, una volta danneggiata, tendenzialmente andrà incontro a una degenerazione lenta ma purtroppo inesorabile. I piccoli danni di solito sono ben sopportati, non danno grandi sintomi, ma proprio per questo dobbiamo stare attenti a questi primi sintomi e a curarci in senso igienico per quanto riguarda la salute della nostra cartilagine. E di sintomi, dei primi sintomi ne parleremo tra poco. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde se volete intervenire, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Tutti noi abbiamo la cartilagine, ma sentiamo da un nostro mini sondaggio che cosa sappiamo di lei. Cos'è la cartilagine? Ma non so di preciso, probabilmente è un qualcosa che tiene insieme le ossa e ad esempio nel caso del ginocchio, quando si rompe anche il nostro ginocchio è rotto. Cartilagine è il cuscinetto che c'è tra le ossa e, tra le ossa in movimento, tipo nel ginocchio c'è la cartilagine, serve come lubrificante e cuscinetto, tipo nelle anche, nelle spalle e in tutti questi posti. So che ha a che fare con il ginocchio, ma più di tanto non so. Ma secondo me la cartilagine è una specie di tessuto che sta tra le articolazioni e penso che serva per fare in modo che le articolazioni non vengano a contatto tra di loro, non sfreghino, perché so che se non c'è la cartilagine o se ce n'è poca, le articolazioni poi stridono e fanno male. Però di preciso non so dirtelo. Dottor Marinoni, invece lei lo sa. Ma la cartilagine sicuramente è uno degli elementi costituenti dell'articolazione, ma non solo dell'articolazione. Cartilagine ne troviamo di diverso tipo, per esempio la cartilagine elastica nel padiglione auricolare, nell'ale del naso, o la fibrocartilagine che invece forma i menischi. La cartilagine di cui parliamo quando parliamo di articolazione è una cartilagine cosiddetta ialina, che ha appunto delle caratteristiche specifiche per quanto riguarda il movimento, quindi molto molto liscia, determina una facilità di scorrimento dei capi ossei e soprattutto aiuta a distribuire i carichi sull'articolazione. Teniamo conto che la cartilagine è presente fin dall'inizio, anzi la maggior parte del costituente del tessuto osseo quando siamo a livello fetale, infatti la cartilagine è precursore della formazione dell'osso, poi rimane invece sulle parti di rivestimento delle articolazioni. La cartilagine poi chiaramente, come dicevamo, può andare incontro a delle degenerazioni che possono essere primitive, proprio intrinseche al tessuto, che quindi va mano a mano anche per l'invecchiamento degenerando, oppure conseguente a dei traumi che la ledono, la rovinano e quindi poi innescano questo processo degenerativo. Dottor Marinoli, lei diceva bisogna stare attenti a dei sintomi, no? Che la cartilagine sofferente ci manda. Noi abbiamo preparato la nostra scheda e quindi se vi riconoscete in una di queste situazioni, avete a disposizione il dottor Marinoli, in questo caso fa rima, ma non è voluta, chiamate l'824 0024. Ascoltiamo quindi con attenzione la nostra scheda. Il ginocchio fa male o si gonfia quando cammini molto o scendi le scale? Hai dolore all'inguine e fai fatica ad accavallare le gambe o infilarti le calze? Senti rumori di scroscio alle articolazioni? Sono comparsi dei noduli attorno alle articolazioni delle dita e senti limitati i movimenti? Dottor Marinoli, possiamo dire comunque ai nostri ascoltatori, restate sereni? Sicuramente. Perché a tutto c'è rimedio. E soprattutto c'è il tempo che ci aiuta. Il tempo ci aiuta, voi avete tempo di approfittare del dottor Marinoli sino alle ore 12. Nella nostra scheda abbiamo utilizzato un termine, scroscio, rumori di scroscio alle articolazioni. Ce lo vuole spiegare? Perché non è quel rumore secco che avvertiamo magari quando ci pieghiamo? Esattamente, questo rumore secco che poi appunto non è accompagnato da dolore è un segno invece di, diciamo, salute della cartilagine, quindi le articolazioni in effetti possono far rumore e questo non è sicuramente un segno patologico. Diventa un segno patologico quando il rumore diventa un rumore più sordo, tipo diciamo pure un qualche cosa che gratta o un elastico che scatta, ed è accompagnato dal dolore. Questi sono invece rumori, diciamo così, sospetti per una lesione cartilaginea. Nella nostra scheda abbiamo parlato di ginocchio, un dolore all'inguine quando accavalliamo le gambe o ci infiliamo le calze, abbiamo parlato anche di noduli intorno alle articolazioni delle dita, perché parleremo di questo. Nel sondaggio abbiamo visto che spesso parlando di cartilagine si pensa al ginocchio, ma lei ci ha spiegato che per fortuna non è solo lì. Anzi no, è proprio dappertutto, diciamo, nelle articolazioni. Sicuramente il dolore del ginocchio quando si fanno le scale, così quando viene utilizzato il ginocchio, può essere collegato a una patologia cartilaginea specifica e soprattutto probabilmente conseguente a degli errori, diciamo, di utilizzo dell'articolazione, il sovrappeso, gli esiti di traumi, delle lesioni legamentose. I noduli invece che sono stati citati sono più caratteristici di quella che viene definita un'artrosi primaria, quella che prima dicevo come caratteristica intrinseca a degenerare del tessuto, nel senso che questo tessuto in effetti, meglio ancora l'ambiente articolare, può determinare di per sé delle lesioni a livello della cartilagine e quindi a portare a una degenerazione, quella che poi conosciamo in effetti come artrosi. Quindi oggi andiamo a caccia dei sintomi che possono in qualche modo evidenziare delle iniziali lesioni della cartilagine, perché ci sono tante opzioni terapeutiche, bisogna intervenire precocemente per limitare i danni. Il dottor Marinoli è qui per raccontarcele. 824 0024, messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. 3 grammi al giorno, questa è la dose giornaliera di sale che possiamo permetterci. Chi sgarra rischia, chi si attiene, quindi si trattiene, ci guadagna. Ma per capire perché qualche pizzico di sale in più può fare la differenza, ho in linea con noi la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALT, l'Associazione per la Lotta alla Trombosi. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Un po' di sale in meno salva la vita, dite voi medici, ma a noi sembra impossibile che aggiungendo meno sale all'insalato o all'acqua della pasta possiamo ottenere grandi benefici. Possiamo ottenere davvero grandi benefici. Questi concetti a volte sono così semplici che rischiano di sembrare banali. 3 grammi di sale al giorno equivalgono a un cucchiaino da tè e questo cucchiaino da tè di sale deve essere distribuito su tutto quello che mangiamo durante il giorno. E il sale è un forte complice della squadra dei fattori di rischio che provocano le malattie cardiovascolari e direttamente interviene sull'elasticità dei nostri vasi e delle nostre arterie, rendendole più rigide. Già chi ha la pressione alta può avere benefici riducendo la quantità di sale che mangia durante il giorno, e a maggior ragione chi non ha la pressione alta può prevenire l'insorgenza dell'ipertensione riducendolo fin dall'inizio. Infatti, dottoressa, la prima cosa che ci dice il medico: se i valori della nostra pressione sono un po' fuori norma, mangi meno sale, riduca il sale, quindi meno affettati, meno prodotti confezionati. Quindi tra sale e pressione c'è una relazione molto stretta. Sì, la relazione è molto stretta ed è provata, ma è provato anche che togliendo il sale riduce la pressione. Questo è un concetto molto importante perché deve dare speranza anche a chi sta già prendendo dei farmaci per la pressione e potrebbe averne bisogno di minori quantità. È molto subdolo l'effetto che il sale può fare, perché noi non abbiamo soltanto il sale che vediamo o che aggiungiamo, c'è il sale che è presente nei cibi che consumiamo. Tutti i cibi conservati, gli snack, gli inscatolati, le salse, tutto quello che aggiunge sapore o tutto quello che arriva già pronto in scatola può contenere molto sale. La Commissione europea si sta muovendo da tempo su questo fronte, cercando di promuovere in tutti i paesi europei la produzione di etichette che siano facilmente leggibili sulle scatole, perché per noi diventa complicato dosare il sale che consumiamo ogni giorno. La verità è che con un po' di buon senso ci possiamo arrivare. Dobbiamo ricordarci che il sale non aggiunge sapore, è una nostra abitudine, ma il sapore del cibo lo possiamo sentire con le papille gustative della lingua. Non abbiamo bisogno di sale per enfatizzarlo. Quindi non è mai troppo tardi per cominciare a mangiare meno salato. E direi, dottoressa, chi ben comincia a metà dell'opera. Sarebbe quindi auspicabile educare già i nostri bambini a ridurre il sale nella dieta. Sì, dobbiamo cominciare dai bambini, perché purtroppo una ricerca recente ha evidenziato che i nostri bambini, che noi sappiamo che sono troppo sovrappeso, che sono obesi, abbiamo un 30% anche in Italia di bambini che sono sovrappeso, d'altra parte basta che ci guardiamo in giro, questi bambini consumano durante il giorno molti snack e questi snack sono molto sapidi, pieni di sale, e quindi che cosa comportano? Comportano un aumento della sete. Il bambino quando ha sete non beve acqua, beve bibite zuccherine, le bibite zuccherine gli portano ulteriori calorie e questo è un processo molto pericoloso che nell'andare degli anni può provocare grossi guai. Le donne in gravidanza dovrebbero stare particolarmente attente al consumo di sale. Ogni tanto si parla di obesità che nasce nella pancia della mamma, perché la madre già dalla gravidanza sta condizionando il modo in cui il suo bambino crescerà. Io credo che questi messaggi siano straordinariamente importanti, perché ci stiamo avviando verso anni in cui sarà sempre più difficile avere accesso a delle risorse economiche per curare la gente. Ognuno di noi deve fare la sua parte. Credo che anche mettendoci davanti allo specchio, se vogliamo essere dei giudici imparziali, possiamo già da soli guardarci e capire che se c'è qualcosa che non va, qualcosa dobbiamo fare già da soli e non delegare sempre al medico o ad altri. Bene, quindi dottoressa, un pizzico di sale in meno per salvare cuore e cervello. E noi domani, proprio in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, che si celebrerà il 28 settembre, dedicheremo una puntata intera per parlare dei fattori di rischio e anche dei fattori protettivi della salute del nostro cuore. Dottoressa, buona giornata e grazie. Grazie anche a lei, buona giornata a tutti voi. Pronto soccorso. E riprendiamo il tema del giorno. Oggi parliamo di cartilagine, impariamo a conoscere i fattori di rischio e le situazioni che possono compromettere la salute di questo tessuto che desideriamo si mantenga forte, resistente sino a 100 anni, ma parliamo anche delle possibilità che abbiamo oggi a disposizione per riparare eventuali danni provocati da traumi, usura, lesioni trascurate. Dottor Marinoni, ma chi rischia di più sulle cartilagine? Pesano più gli anni o il nostro stile di vita? Ma abbiamo detto che la cartilagine soffre di sovraccarichi, è un tessuto che appunto lavora con i carichi articolari, quindi ciò che supera, diciamo, la capacità, la resistenza del tessuto può provocare dei danni. Quindi diciamo che i fattori di rischio più comuni sono quelli legati al sovrappeso, alla sedentarietà, quindi alla non abitudine a muoversi, e anche alle attività lavorative particolarmente faticanti che possono chiaramente sovraccaricare le articolazioni. Però anche il troppo sport, soprattutto lo sport che viene praticato senza un'adeguata preparazione o con degli errori nel gesto tecnico, può determinare poi dei danni alle articolazioni, senza contare che poi le lesioni articolari, quindi di altre strutture dell'articolazione, quali le lesioni legamentose o dei menischi, possono determinare uno squilibrio nell'articolazione e quindi portare c'è una a un sorta danno. Di ricaduta. Abbiamo in linea con noi Maurizio, che ci chiama dalla provincia di Roma, e subito dopo Marzio dalla provincia di Rovigo. Andiamo prima a Roma, 824 0024. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Una domanda. Ho un problema a un ginocchio. Praticamente io ho strappato i legamenti crociati e ho un interessamento del collaterale interno. Ed è un periodo che comincio ad avere dei forti dolori a entrambe le ginocchia. Può essere dovuto a questo problema dei legamenti o è un problema a parte quello della cartilagine, del dolore? Grazie Maurizio. Dottor Marinoni. Ma sicuramente una lesione legamentosa come quella che è stata descritta dall'ascoltatore è un fattore di rischio per la cartilagine, a parte quello che può essere il trauma diretto nel momento in cui è avvenuta la lesione dei legamenti, quindi la distorsione del ginocchio. In effetti l'articolazione che non lavora correttamente può portare a dei sovraccarichi e quindi a delle lesioni secondarie. E anche l'interessamento del ginocchio controlaterale può essere una conseguenza di un lavoro alterato, diciamo così, funzionando male un ginocchio, anche l'altro può soffrirne. Ovviamente bisognerebbe valutare se non ci sono altri fattori di rischio legati magari anche alla struttura degli arti inferiori. Delle deviazioni dell'asse, per esempio il cosiddetto ginocchio vano, le gambe storte, sono quelle che possono determinare nel tempo appunto un danno anche a livello cartilagineo. Andrei allora a Marzio, come promesso, che ci chiama dalla provincia di Rovigo. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Marzio. Grazie. Volevo chiedervi se fra i fattori di rischio per la cartilagine ci sono anche l'assunzione di alcuni farmaci. Io a seguito di una pericardite idiopatica recidivante ho assunto per lungo periodo cortisone e sto ancora assumendo colchicina. E da circa un anno a questa parte ho notato un aumento moltissimo, un aumento forte degli scrosci tendinei che iniziano anche a darmi proprio fastidio e dolore, nonostante abbia già effettuato diverse indagini di carattere reumatico con esito negativo. Negativo. Certo. Grazie Marzio. Dottor Marinoni, i farmaci possiamo inserirli nella lista, nell'elenco dei fattori, dei nemici della nostra cartilagine? Sicuramente hanno un'influenza negativa i cortisonici in questo caso, come possono essere altri farmaci che agiscono per esempio sulla reazione immunologica dell'organismo. E diciamo che non sono sicuramente i fattori più comuni per il danno cartilagineo, però nelle assunzioni croniche, appunto per malattie a carattere cronico, i danni possono essere anche a livello sia tendineo, cartilagineo, soprattutto osseo, quindi indubbiamente tra gli effetti collaterali della terapia cortisonica possiamo mettere anche il danno cartilagineo. Dottore, la nostra scheda ha evidenziato dei segnali che possono in qualche modo farci sospettare un problema alla cartilagine. Li abbiamo, no, li abbiamo passati un po' in rassegna, ma un conto è il sospetto, un conto è la diagnosi. Allora, voi medici, come arrivate a fare diagnosi? Soprattutto, se è possibile, ci dica anche gli esami che non servono, perché nel mucchio perché se ne fanno sempre tanti, certo, a volte troppi, gli esami costano, e meglio fare quelli utili che arrivano subito al problema e... Certo. E si risparmia tempo, fatica e denaro. Sicuramente. E teniamo conto che comunque queste sono indicazioni di massima che io posso dare, ovviamente vanno poi valutate caso per caso, soprattutto analizzando bene la storia del paziente, quindi quello che possono essere i fattori di rischio che abbiamo visto prima e che ci possono guidare verso una diagnosi. Indubbiamente nelle fasi iniziali della lesione cartilaginea sia i sintomi che i segni sono molto modesti e l'unico esame che può darci una risposta, diciamo, efficace sulla diagnostica è la risonanza magnetica nucleare. Le radiografie sono sempre utili soprattutto per escludere altre patologie sia a livello dell'osso che dell'articolazione stessa. Sì. Nelle fasi avanzate invece, quando siamo già verso un'artrosi, sicuramente la fa da padrone la radiografia, perché l'alterazione che andiamo a cercare non è più tanto a livello della cartilagine che è completamente interessata, anzi qualche volta addirittura assente, ma sono le alterazioni del profilo osseo e quindi, diciamo così, più facilmente rilevabili dalla radiografia. La risonanza addirittura qualche volta ci confonde. Un menisco rotto o degenerato in un ginocchio artrosico ovviamente non è la parte principale del problema, quindi sicuramente non è quello che ci può guidare poi nella cura. Ci sono sicuramente altre metodiche oggi forse, diciamo così, avanzate, quale la possibilità di andare a esplorare le articolazioni con una mini invasività, quindi l'office arthroscopy si chiama, quindi l'utilizzo di mini telecamere, mini sonde ottiche che possono essere introdotte nel ginocchio in anestesia locale e che con la dimensione di un ago ci permettono, un ago da siringa, ci permettono di esplorare. Quindi lo stato di salute della cartilagine. Certo, direi addirittura avanzando quello che è la precisione della risonanza magnetica. È chiaro che non è un sistema che va utilizzato in modo, diciamo così, diffusivo, però può essere un completamento quando c'è una sospetto o comunque non una certezza diagnostica. È giusto anche fare degli esami del sangue, dottor Certamente Marinoni, per sì. escludere magari malattie reumatiche, infiammatorie o altro? Certo, perché una buona parte dei danni cartilagini avvengono proprio per malattie di tipo infiammatorio e quindi anche reumatico. Ci sono anche malattie metaboliche che possono danneggiare la cartilagine, per esempio la gotta, quindi l'iperuricemia, quindi direi che uno screening di esami sia reumatologici che metabolici ci possono aiutare poi nell'inquadramento del paziente. Andiamo a Francesco che ci chiama dalla provincia di Latina, 824-0024. Buongiorno Francesco. Buongiorno Francesco da Terracina. Ascolti, buongiorno a tutti e complimenti alla vostra emittente soprattutto. Volevo chiedere al dottore, io sono stato operato sia a destra che a sinistra al menisco e ho sempre fatto sport dall'età di 13 anni, ora ne ho 48 e continuo a fare sport. Ho fatto maratone, corso sempre a piedi, però adesso come corro dopo una mezz'ora sento una fitta, una fortissima al ginocchio e devo fermarmi. Mi hanno consigliato di non correre più a piedi perché potrei andare incontro a qualche cosa di più grave con il tempo. Senta dirmi qualcosa riguardo, cambiare sport, perché adesso corro in bicicletta, non so se mi dia qualche consiglio. Grazie Francesco. Allora, uno sportivo, i due menischi già operati, non si è fatto mancare nulla, vuole continuare a fare sport. Volendo è il paziente ideale, sì. Diciamo che purtroppo sono tutte le condizioni che possono determinare un danno cartilagineo. Pensate che l'asportazione di un menisco, che può essere indispensabile e necessaria in un evento traumatico, nel tempo porta a una perdita di volume della cartilagine nel ginocchio del 6% all'anno, quindi rapidamente il patrimonio cartilagineo viene perso. L'attività sportiva, sicuramente la corsa è un'attività di sovraccarico per le articolazioni, in particolare per il ginocchio, e quindi andiamo ad aggiungere danno ad anno praticamente. Certo, indubbiamente per chi è appassionato di sport è difficile pensare a rinunciare, ed è anche vero che tutto sommato dovremmo essere noi in grado di risolvere il problema del paziente per permettergli di fare tutto ciò che vuole. Però se parliamo di igiene di vita, sicuramente la corsa non è l'ideale per meglio chi ha avuto la bici. Questi problemi. Sì, la bicicletta può essere, diciamo, tutto sommato più adatta. Chiaramente una bicicletta deve essere utilizzata in terreno piano principalmente, quindi senza salite, quindi sforzi per non sforzare troppo, e comunque sia va valutato quello che è la reazione del ginocchio una volta che si sono fatti magari 50 km. È chiaro che se il ginocchio si gonfia è inutile andare avanti ed insistere, ci sono altre possibilità ovviamente per mantenere un'attività fisica. Ed eccoci tornati insieme. Cartilagine, questo è il tema del giorno. In studio con me il dottor Marinoni, in linea il dottor Gianluca Melegati, responsabile del centro di riabilitazione sportiva dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Dottore, buongiorno. Buongiorno. E lì, giocando a rugby, di colpi se ne danno davvero. Assolutamente sì. Senta, dottore, io avrei bisogno di lei perché in presenza, quando arriva una diagnosi, no, di una lesione alla cartilagine, ci sono varie opzioni che vengono suggerite. La prima, come ricordava il dottor Marinoni, eliminare i fattori di rischio, quindi eliminare il sovrappeso, ridurre magari, correggere la pratica sportiva, il gesto sportivo se sbagliato, insomma non sovraffaticare le cartilagini, ma viene in aiuto anche la magnetoterapia. Sì. Ci spiega esattamente che cos'è, come funziona e in che tempi si vedono i primi risultati? Certo. Ma intanto dobbiamo dire che la magnetoterapia è l'utilizzo di un campo magnetico a scopi terapeutici, sì. E quindi l'esposizione dell'organismo a questo campo magnetico che può provocare degli effetti biologici o su una zona del nostro corpo o addirittura sull'intero nostro organismo. Devo dirle che questo campo magnetico e quindi le forze generate da questo campo agiscono a livello cellulare soprattutto, sì. E quindi ripristinando determinate condizioni fisiologiche proprio di equilibrio a livello cellulare, e questo favorisce il ripristino di una normale situazione fisiologica con il controllo di dolore o infiammazione o addirittura per taluni anche rigenerazione tissutale. Devo dirle che dal punto di vista scientifico la magnetoterapia non si è ancora dimostrata così efficace a livello proprio di trattamento di lesioni cartilaginee, però è un dato di fatto che è una terapia molto utilizzata e ha molti estimatori nella comunità scientifica ortopedica, E questa efficacia è senz'altro legata al tempo di trattamento. Non ha molto senso prescrivere trattamenti 2-3 volte alla settimana, ma ha senso prescrivere, se si vuole utilizzare la magnetoterapia, trattamenti giornalieri, anche per alcune ore al giorno. Non è un caso che infatti in commercio esistono degli apparecchi portatili che possono essere gestiti dallo stesso paziente. Abbiamo in linea con noi Fernando da Cremona. Fernando, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Noi la sentiamo bene, non benissimo, ma bene. Va bene. Cercherò di sintetizzare. Intanto complimenti, perché ci fa pensare un po' alla nostra salute, cosa che in questo momento non è sbagliata. Poi volevo chiedere al dottor Marinoni un consiglio. Cioè, io da un anno tutte le volte che faccio un passo ho uno scroscio al ginocchio sinistro. Probabilmente dovuto ad una cattiva posizione tenuta durante le vacanze dell'anno scorso. La stessa cosa si riduce moltissimo se io cammino scalzo, quindi se non metto le scarpe, cammino nella sabbia o sul pavimento, si riduce quasi a sparire. Ho fatto una risonanza che praticamente non ha rilevato niente nulla di particolare, se non una piccola infiammazione al ginocchio. Che consiglio mi dà? Cioè, cosa dovrei fare per approfondire questa... Il dottor Marinoni non può mandarla in vacanza sempre a camminare sulla spiaggia, che Fernando sarebbe sicuramente felice, ma... Ma sicuramente non è una prescrizione corretta. Ma probabilmente, come racconta l'ascoltatore, c'è un problema di meccanica del passo, quindi di come lui utilizza il ginocchio quando cammina. Quindi non è solo un problema del ginocchio, è un problema proprio di come vengono utilizzati gli arti inferiori. Probabilmente questo sintomo non è legato a una lesione cartilaginea, e già la risonanza potrebbe averlo escluso, è legato più che altro a una parte di quei rumori che dicevamo, diciamo così, benigni, cioè che non determinano... Scusi, faccio il balanzone. Se in queste situazioni, se si mettesse un plantarino... Ma così rispondiamo essere, anche certo, ad alcuni ascoltatori. Potrebbe che... essere una delle soluzioni. Il fatto stesso che lui, cambiando il tipo di calzatura, ha un beneficio, probabilmente una volta analizzato quello che può essere il difetto meccanico dell'articolazione, può essere corretto anche semplicemente con delle ortesi plantari. Dottor Melegatti, torniamo a lei, alla nostra magnetoterapia. Quindi, insomma, è indicata applicazioni quotidiane, e c'è un'evoluzione? Qualcosa sta cambiando o è l'unico trattamento? Sì, esistono delle terapie fisiche innovative, diciamo, che dal punto di vista scientifico ci danno forse un po' più garanzie. Vale a dire, esistono degli studi che dimostrano che, per esempio, il laser ad alta potenza, e per laser ad alta potenza intendo un certo tipo di laser ad alta potenza, vale a dire un laser pulsato, risulta efficace. Esistono studi in corso, soprattutto portati avanti da una equipe del Rizzoli di Bologna, che è un prestigioso istituto ortopedico, che dimostrano come l'applicazione di laser ad alta potenza possa influenzare efficacemente proprio le lesioni cartilaginee, e possa creare una sorta di rigenerazione tissutale. Naturalmente sono questi studi che devono essere ancora validati, però questa è la direzione. Questa è la direzione. Il dottor laser Marinoni voleva aggiungere qualcosa, dottore? No, semplicemente questo, volevo sottolineare, come giustamente ha detto il collega, che l'approccio al trattamento di queste lesioni attraverso i mezzi fisici comunque va verso lo stimolo biologico. Quindi il punto è quello di capire qual è il meccanismo con cui la cartilagine può difendersi, ed eventualmente quali sono i mezzi per poterla aiutare. Dottor Melegatti, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei. Noi vogliamo a Torino da Natalino. Buongiorno Natalino. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, io volevo segnalare il problema. Io una decina d'anni fa mi sono fratturato la caviglia, una frattura trimalleolare, e dopo circa un anno ho ancora attualmente i mezzi di sintesi all'interno. Mi è stato diagnosticato da una risonanza che c'è un consumo anomalo della cartilagine, in quanto l'asse del perone è fuori asse praticamente. Per cui devo evitare ovviamente sport gravosi, certo, che possano andare a consumare il diciamo, la cartilagine. Quella che è rimasta, no? Quella che è rimasta. Ecco. Quindi noi vogliamo tenere la cartilagine di Natalino. Dottor Marinoni, possiamo fare qualcosa? Grazie. Ma... Natalino. Sì, sicuramente qui il problema è legato a un esito di trauma che ha alterato la meccanica dell'articolazione, quindi l'ideale sarebbe poter correggere in qualche modo, adesso ovviamente senza poter vedere niente, ma comunque poter correggere quello che è la meccanica dell'articolazione, quindi correggere quel difetto che abbiamo visto è rimasto dall'esito del trauma. Però nel frattempo bisogna cercare di mantenere quello che rimane di questa cartilagine, quindi sicuramente intervenire con tutte quelle cose che, diciamo così, possono aiutare la cartilagine. Ripetiamole rapidamente, perché... Ma principalmente direi quello che può essere utile in una situazione del genere è comunque mantenere un'attività fisica controllata, utilizzare degli integratori alimentari che possono aiutare la cartilagine residua a resistere, come la glucosamina, chiaramente trattamenti lunghi, non risolutivi, ma sicuramente aiutano. La fisioterapia, abbiamo visto le terapie fisiche, eventualmente per un certo periodo può essere utile anche utilizzare l'acido ialuronico per via infiltrativa, quindi infiltrare nell'articolazione questo prodotto che è uno dei costituenti principali della cartilagine per cercare di aiutarla, diciamo così, a resistere. Però indubbiamente la correzione, diciamo, del difetto meccanico è la base di tutto quanto. Allora, dottor Marinoni, tra poco vorrei affrontare con lei il discorso trapianto. Sì, una nuova frontiera, tutto sommato già valicata per un certo periodo di tempo. Bisogna fare un po' di precisazione. Eccoci, e in linea con noi abbiamo Giorgio, ci chiama da Milano. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Ci racconti, Giorgio, allora, che succede? Mi hanno diagnosticato che sono privo di cartilagini consumate per l'attività fisica che ho fatto. Sì. Comunque mi hanno detto che l'unico sistema per poter ovviare è la protesi. Prima della protesi ho fatto una osteotomia, però io chiedevo al medico, al professor Marinoni, se c'era qualche altra possibilità oltre alla protesi meno invasiva. Grazie. Io sono alto 1,90, peso 90 kg. Quanti anni ha Giorgio? È 62. 62. Okay. Grazie Giorgio. Dottor Marinoni, oltre alla protesi? No, purtroppo niente. Mi sembra che a questo livello l'unica soluzione può essere una protesi. Indubbiamente una protesi che però può avere varie, diciamo, tipologie di invasività. Possono essere delle protesi monocompartimentali, totali, insomma. Però indubbiamente quando la cartilagine non c'è più, non c'è niente che la possa far rigenerare. Invece quando, in quali casi si può arrivare al trapianto? Ma l'indicazione principale è legata all'età. Sicuramente bisogna pensare che il trattamento biologico del trapianto può funzionare fino a circa i 40 anni. Il trapianto poi di fatto è il prelievo di cartilagine da una zona sana del ginocchio che può trattare una lesione limitata mandando questa cartilagine in laboratorio, facendo sviluppare queste cellule e poterle poi riempiantare nella zona della lesione, per esempio in un ginocchio, applicandole poi su un supporto che di solito appunto biocompatibile, che si riassorbe nel tempo e che fa rigenerare un tessuto. Questo è un trattamento che ormai è in uso da più di 15 anni. Per l'artrosi però non serve a nulla. Assolutamente no. Parliamo sempre di lesioni limitate, anche se estese, ma comunque sempre limitate. Il post-operatorio? Il post-operatorio è impegnativo. Lungo, è lungo, impegnativo. È difficile, soprattutto una lunga riabilitazione, ma soprattutto abbiamo dei risultati che possiamo valutare non tanto in termini, diciamo così, soggettivi del paziente che sta bene abbastanza in fretta nel giro di qualche mese, ma purtroppo per sapere se qualcosa cresce abbiamo bisogno degli anni, non dei mesi. Si fa in due tempi il trapianto. Il futuro? Il futuro può essere quello che appunto stiamo studiando e che è la possibilità di fare tutto in un unico intervento, utilizzando dei supporti attraverso la bioingegneria che facilitano la rigenerazione del tessuto senza bisogno di fare il trapianto delle cellule, quindi dei supporti di cosiddetti biomimetici. Quindi abbiamo già buttato un occhio verso il futuro, abbiamo parlato sino adesso del presente, la ricerca lavora, ma in che direzioni e con quali obiettivi? In linea con noi abbiamo il professor Andrea Facchini, ordinario di immunologia clinica e direttore del laboratorio di immunologia genetica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Professore, parliamo di futuro, ma di un futuro vicino, di un futuro prossimo. Che cosa c'è dietro l'angolo? La ricerca si sta muovendo in diverse direzioni, ovviamente con tempistiche diverse. La cosa più prossima a venire sono questi nuovi scaffold, che sono questi supporti che vengono usati per veicolare le cellule del paziente a livello delle lesioni. Oggi abbiamo scaffold in grado di riparare in maniera piuttosto efficace la cartilagine quando ha subito un trauma. Però un domani saremo in grado di riparare anche lesioni della cartilagine e dell'osso sottostante. Un altro fronte degli scaffold è rappresentato dagli scaffold bioattivi, cioè dei supporti che quando impiantati nel paziente siano in grado di richiamare le cellule stesse del paziente nella zona della lesione, in modo che questa possa essere rigenerata e ricostruita. Questo è il futuro prossimo. Poi abbiamo un futuro un pochino più lontano, lontano nel senso che le applicazioni sui pazienti avverranno tra 3-5 anni, che è rappresentato dal grande mondo delle cellule staminali. Come lei sa, le cellule staminali sono delle cellule in grado di differenziare attraverso vari passaggi e riformare tessuti dell'organismo. Io mi riferisco ovviamente a cellule staminali autologhe, cellule staminali che sono state prelevate, isolate dallo stesso paziente. Con queste cellule si può, veicolandole su opportuni scaffold, farle differenziare in senso della cartilagine e nel senso dell'osso. Quindi apriamo tutta una prospettiva molto importante per riparare anche grosse lesioni. Gli studi sono per ora nella fase preclinica, cioè nella fase degli studi in vitro e nella fase delle sperimentazioni sugli animali. I risultati per ora sono molto promettenti e direi che la parte più interessante è che si sono avuti risultati positivi, nel senso del riparo, anche in lesioni non traumatiche ma anche di tipo degenerativo. Si potrebbe pensare di applicarle per la cura dell'artrosi, professore? Precisamente, però chiaramente è tutto da verificare, io sono prudente di natura, è tutto da verificare poi nella sperimentazione più allargata per vedere che cosa succederà veramente quando le impianteremo nei pazienti. Professore, per quanto invece riguarda il fronte della terapia genica? Dunque, la terapia genica è usata direi regolarmente ormai in moltissimi laboratori per studiare i meccanismi che stanno alla base del differenziamento delle cellule per bloccare certi geni e attivare altri geni. Le applicazioni sull'uomo richiedono invece una tempistica un pochino più lunga. Queste terapie funzionano, sono già efficaci per malattie molto gravi e mortali, ad esempio nelle immunodeficienze, però questa terapia ha un rischio intrinseco, cioè portare dei geni nuovi o delle cellule trasformate in un individuo comporta un minimo di rischio. Quindi, dato che noi dobbiamo guardare prima di tutto al paziente, occorrerà valutare con molta attenzione l'efficacia, prima di tutto, i rischi e i benefici che ci possono essere in questo tipo di terapia. Professore, io la ringrazio soprattutto per la sua chiarezza. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei, dottoressa, di nuovo. Dottor Marinoni, con lei torniamo al presente ed è arrivato il momento di salutarci e di ringraziarla per essere stato con noi. Grazie a voi e soprattutto a risentirci. Grazie, buona giornata. Arrivederci. E chiudiamo in bellezza con il professor Fabrizio Pregliasco, virologo Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano, strenuo paladino nella lotta a virus e batteri cattivi. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, oggi per lei c'è un compito da proporle molto semplice, comunque importante. Io vorrei che lei ci spiegasse come si disinfetta una ferita e se capace ci dica anche come evitare che si formi una brutta cicatrice. C'è chi usa l'alcol, chi l'acqua ossigenata, chi dice che la cosa migliore poi alla fin fine sia lavare la ferita con acqua e sapone, chi usa ancora disinfettanti a base di cloro, insomma ognuno ha la sua ricetta. Io vorrei sapere la sua. La prima cosa è sicuramente quella di un lavaggio della cute circostante, stando attenti a non contaminare la ferita, e questo lo si può fare con anche saponi, detergente e acqua, e quindi anche l'uso, se c'è, di acqua corrente è ottimo per eliminare innanzitutto lo sporco che è anche luogo dove ci sono i batteri, e poi usare il disinfettante giusto. È sbagliato per esempio l'alcol ha una buona efficacia ma purtroppo coagula le proteine, può creare quindi difficoltà nella successiva poi chiusura della ferita e nelle eventuali anche cheloidi successivi se la ferita è importante, perché nella fase appunto ricostitutiva altera la capacità ricostruttiva dell'organismo. È importante scegliere il disinfettante giusto, in questo senso i composti del cloro degli iodofori in genere sono sicuramente i disinfettanti che hanno la miglior, diciamo, risultato di efficacia senza effetti collaterali, perché non alterano la cute, non creano problemi di irritazione delle mucose e hanno un'ottima efficacia disinfettante. Quindi, come sempre, il buon senso, e poi la cosa migliore è cercare di evitare le emorragie, quindi usare se possibile materiale sterile o comunque pulito per tamponare la fuoriuscita di sangue e facilitare con questo avvicinamento dei lembi la successiva guarigione della ferita. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.